se non prendo il caffè non riesco a carburare. La grande maggioranza di caffè consuma 30 ziglia al giorno. Il caffè è la seconda più trattata. Ma serve anche la caffeina può migliorare le nostre prestazioni ambientali. Tutto il mondo si beve caffè. E sono arrivate le 5, l'orario del caffè doppio. Eh sì, è proprio così, è domenica. Ieri sera siamo tutti usciti a festeggiare il fine della settimana. E alle 5 di domenica, naturalmente, ormai da 3 settimane, e siamo molto contenti che in parecchi ci stanno seguendo, inizia caffè doppio. Già sta scorrendo il pezzo che presenterà, diciamo, questa puntata, che introduce questa puntata, che poi presenteremo dopo questo pezzo. Ma intanto ascoltiamocelo da capo. Caffè doppio parte con questa canzone del 1967. Questo era Jimi Hendrix e questa era Fox and Lady. E questi sono gli 87.9 FM. Questa è Radio Onda Rossa. È proprio così, Radio Onda Rossa, le 17. Abbiamo iniziato adesso Caffè doppio. Se ci volete contattare, chiamateci allo 0649 1750. Ma cominciamo subito con la nostra puntata dedicata agli anni 70. Diciamo, questo pezzo non era ancora negli anni 70, appunto, come diceva DVX, era del 67, ma ci introduce bene nel discorso sulla musica degli anni 70. Abbiamo deciso di metterlo tanto perché ci piace, insomma, Jimi Hendrix è comunque in tutti i nostri cuori, poi introduce secondo me bene agli anni 70. Perché? Perché con quella chitarra lui faceva di tutto praticamente, insomma la chitarra elettrica già era stata inventata, insomma i Beach Boys, i Beatles già avevano cominciato ad usarla, ma lui l'ha rivoluzionata, insomma con i suoi assoli, con la bocca dietro la schiena, insomma la strapazzava, se la magnava, gli dava fuoco, insomma è il simbolo della chitarra elettrica. E proprio perché è il simbolo della chitarra elettrica, simboleggia un po' quello che si svilupperà negli anni 70, no? Perché negli anni 70 si sviluppa un tipo di musica basato sull'elettricità, diciamo, no? Dalla chitarra elettrica, che poi verrà utilizzata negli anni 70, verrà sempre sviluppata di più con i vari distorsori, eccetera, e ancora oggi, insomma, è lo strumento diciamo più quotato sicuramente, ma non solo per la chitarra elettrica, ma Jimi Hendrix è diventato il simbolo della maggior parte dei chitarristi odierni. Diciamo che da lui è partita una stregua di grandissimi chitarristi che si ispirano a lui. E io sinceramente non amo Jimi Hendrix, però lo reputo un grandissimo genio e un grandissimo visionario, perché veramente lui è stato avanti a tutti in quel periodo. Sicuramente, insomma, oggettivamente era un musicista che ha segnato la storia. Dopodiché negli anni 70 principalmente si svilupparono i generi che furono del rock, con i Led Zeppelin ad esempio, anche il progressive e la psichedelia, con lo sviluppo sia della chitarra elettrica, degli strumenti che funzionavano grazie all'elettricità, i sintetizzatori, le tastiere, eccetera. E proprio attraverso i sintetizzatori si sviluppò la psichedelia. E allora direi di andare subito avanti con il prossimo pezzo che vi facciamo sentire e poi commentiamo e ve lo raccontiamo. Look out! E non piangete, ma ve la tagliamo così a fine del ritornello, perché la scaletta è molto piena, è fitta fitta di un sacco di musica di questi anni 70. Di questi anni 70, riempiti, rimpinzati di musica, veramente di tutti i generi, proprio il simbolo dello sviluppo della musica che si ascolta ancora oggi e con cui noi siamo cresciuti. Insomma, questi qui, per chi non li avesse riconosciuti, erano i Gong, un gruppo fondato principalmente da David Allen, un australiano bello matto che si faceva un sacco di acidi, ma adesso insomma è ancora arzillo. Noi se ne fa ancora di acidi, e se ne fa ancora tanti, sa proprio di sì, insomma, per chi dice che le droghe ammazzano. Il vecchio più arzillo che abbia mai visto in tutta la mia storia, ti giuro, è stato bellissimo vederlo al concerto sia nel 2010 che nel 2009, mi pare, o nel 2011. Sì, insomma, negli ultimi anni. Gli ultimi anni, comunque, l'ho visto per due concerti, era una cosa splendida, un vecchio motivatissimo, stava sul palco, spaccava ed è continuava ad essere arzillo e allegro come quando c'aveva 30 anni. Era stupendo, meraviglioso. Sì, veramente. Noi siamo rimasti senza parole, tra l'altro siamo andati lì sotto al palco e lui a un certo punto è sceso e ci ha dato il microfono. Insomma, noi siamo stati molto emozionati a cantare dal suo microfono. Insomma, sentivamo nelle casse rimbombare le nostre parole. Ed era bellissimo, veramente. È stato veramente bello, un momento toccante. Insomma, questo gruppo che nasce da questa Australia, italiano mezzo matto, anzi no, matto del tutto, e che poi si sviluppa in Francia e successivamente si trasferisce in Inghilterra, e che ancora vive, tra l'altro. Insomma, anche nelle scorse puntate vi abbiamo fatto ascoltare alcuni dei loro pezzi tratti dall'album The Year 2032, sì, che è il loro 2032. Ultimo album uscito nel 2009. E lui insomma continua a suonare, ma scusami, ma una domanda, ma sei uscito, dimmi, nel 2009? Sì. Perché si chiama 2032? Ah, vabbè, insomma, sì, questa qui è la storia dell'album. Insomma, loro dicono nel 2032 torneremo tutti su questo pianeta dell'amore, se non sbaglio, da cui veniamo tutti. Che si chiama tipo Planet Gong, per caso? Planet Gong, sì, Gong, Gong, Gong. Insomma, se vi piace questo gruppo vi consiglio di ascoltarvelo tutto, perché vi piacerebbe veramente. Insomma, questo sviluppo della psichedelia negli anni 70, veramente piacevole. Tra l'altro David Allen, il fondatore di questo gruppo, fece anche una carriera da solista, e per farvi ascoltare quanto era matto vi facciamo sentire questo pezzo girato alle 5:30 del mattino. Oddio, alle 5:30, cioè voi vi state svegliando adesso alle 5:30 del pomeriggio e loro si svegliavano alle 5:30 del mattino illuminati e andavano in sala a registrare. Ma non è che lui si addormentava dopo la registrazione, cioè andava a dormire verso le 7, le 8 del mattino e finiva come noi alle 5 del pomeriggio a svegliarsi? Possibile, possibile. Molto più probabile, con neuroni infranti, perché sicuramente. Vabbè, insomma, ascoltiamoci questo pezzo tratto da Banana Moon, un album edito per la prima volta nel 1975. And now is the moment at 5 to 3 a.m. for which you've chosen to deprive yourselves of sleep. Hello, banana. E come sempre, se vi piace, 0649 1750. Sandwich and a bucket of tea, abracadabra, Deborah, or McKinley Bartley. Takes a bowl of soup to paint a picture like me. Some dog's breakfast or a bloke on me, smoking on the tea leaves on me family tree. Oh, my friend a Twiddledum and Twiddledee. Lots of lovely badges on the old school kneecap. Oh, hand me a dahlia. We're going to Australia. My life's been a failure. She's turned me down. Soon I'll be waiting on the old gold sand. Everything to love and to hate. understand. Oh, pass me the parsley and me 90-90. I ain't nothing nasty gonna pass my lips. I'm going to Australia. My life's been a failure. She's put me down. Oh, soon be waltzing the old gold scent. Everything too lovely to understand. Oh, pass me the parsley and me 99 chip. Ain't never nasty gonna pass my lip. Give me sweet potato. E questa appunto era la traccia che vi presentavo pochi minuti fa, tratta dall'album Banana Moon di David Allen insieme a un'altra serie di pazzerelli musicisti. Sono le 17 e 16 minuti primi qui a Onda Rossa e state ascoltando Caffè Doppio. Questo è sempre importante ricordarvelo, forse non lo state ascoltando perché state ancora dormendo, ma nel corso della puntata sicuramente vi sveglierete e poi potrete riascoltare l'inizio già penso da stasera in podcast sul sito. Aspetta che ti sei spento il microfono. Vai. Ops, direi ops. Però non fate come me che tutte le mattine posticipo di 5 minuti la sveglia, 5 minuti, 5 minuti, 5 minuti, 5 minuti e il ritardo è assicurato. Vi dovete svegliare alle 5 per ascoltare Caffè Doppio, non c'è alternativa. No, vabbè, però sì, diciamo per quelli più diligenti vi consiglio di svegliarvi alle 5, per gli altri, diciamo quelli che ieri erano nelle condizioni più gravi, si possono anche svegliare dopo la trasmissione e riascoltarsi online. Tipo coma etilico, ospedali o cose del genere, solo loro sono giustificati, gli altri no. Va bene. E comunque devono portare il certificato medico e la giustificazione. Sì, ce lo potete spedire qui. Va bene. Direi che può, direi che può andare. Vabbè, anche una mail per dire: oh, scusa, regà, non vi ho ascoltato. Vabbè, ci va bene lo stesso. Insomma, scorre ancora questo pezzo tratto da Banana Moon, ma penso che dobbiamo andare avanti ed entrare un attimo in Italia. Non so se DWX ci vuole dire un paio di parole sul prossimo pezzo. Allora, il prossimo pezzo che presenteremo è un pezzo degli Area, un formidabile gruppo degli anni 70, un gruppo italiano che è capitanato da Demetrio Stratos, un genio, un vero... Uno dei migliori cantanti che siano esistiti negli anni 70 e che ancora oggi tiene alto il suo onore, direi. Sì, tiene alto il nome dell'Italia in tutto il mondo e sinceramente è uno dei cantanti più bravi nell'uso della voce. Lui usava la voce per qualunque tipo di sonorità ed era fantastico, cioè faceva una sonorità che è chiamata flautofonia, dalla sua voce poteva riprodurre il suono di un flauto ed era spettacolare, veramente sì, spettacolare, qualcosa di commovente insomma. Vabbè, addirittura commovente non lo so, però era veramente spettacolare, un genio. Vabbè, insomma, la musica, cioè, trasmette parecchie... Soprattutto mi commuove. Le lacrime agli occhi. Questo pezzo però commuove realmente, perché questo pezzo si chiama Luglio, Agosto, Settembre Nero, ed è una canzone contro la guerra. عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصرية Thank you. realtà mi costringe a fare guerra all'omertà. Forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità. Gente colorata, quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Quando guardi il mondo senza aver problemi, cerca delle cose, l'essenzialità, non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità. Finisce così questo pezzo degli Area, anni 70, questo progressive spintissimo con la splendida voce di Demetrio Stratos. E, niente, allora questo pezzo che parlava di guerra, di questo gruppo, insomma tra i tre o quattro che spiccarono di più negli anni 70 per quanto riguarda il progressive. Un gruppo che insomma nella loro biografia raccontano che sono non mi vengono le parole oggi, porca miseria, ancora sto a dormire pure io. Cosa hai fatto ieri sera giusto per non curiosità? Te lo dico, non te lo dico, no. Non me lo dici? No, sei sicuro? Un segreto di non voler... ma peccato che io sia con te in tutti i momenti. Anche sono... ieri sono un po' come Gesù, sono onnipresente, quindi... Ma perché io non mi ricordo mai con chi ero la sera prima? Cioè, non lo so, ma io me lo ricordo bene. Forse okay. Ieri non ho bevuto più di tanto, quindi me lo ricordo, almeno ecco, per una serata. Ma è venuto in mente. Ci tenevano a far sapere che erano impegnati politicamente. Il loro impegno politico si trasferiva, si trasmetteva anche nella musica, perché ci tenevano ad essere multietnici, anche simbolicamente, perché tenevano a fondere diversi generi: progressive, fusion, free jazz, musica elettronica, insomma. Veramente un gruppo pieno di valori musicali. E direi di andare subito avanti, insomma siamo arrivati quasi alla mezz'ora delle 5 del pomeriggio, il tempo comincia a stringere. Rimaniamo sempre nel campo italiano, naturalmente sempre degli anni 70, perché agli anni 70 è dedicata questa puntata. Ci spostiamo su un altro gruppo molto importante per quanto riguarda il progressive, che sicuramente conoscerete, sono il Banco del Mutuo Soccorso, e vi facciamo ascoltare un pezzo tratto dal loro secondo album, uscito nel 1972, 100 mani e 100 occhi. Piace, il numero è sempre lo stesso, 0649 1750. Thank you. 7:30 minuti primi, era 100 mani e 100 occhi del Banco. Sicuramente li conoscerete se siete appassionati di progressive. Credo che ci sia poco da presentare anche di questo gruppo, nel senso affiancano da un certo punto di vista, non so se tu sei d'accordo, gli Area per quanto riguarda il portare avanti un progetto di progressive e di sviluppo sperimentale della musica negli anni 70. Sicuramente una cosa che bisogna citare è che il più grande sito di progressive al mondo si chiama Progressive Archives. Ha tutte categorie di progressive, dal progressive metal al progressive rock al progressive grunge, come lo volete chiamare, comunque qualunque tipo di progressive. E una sezione particolare è dedicata al progressive italiano, si chiama Progressive Italiano, e è un grande onore perché il progressive italiano è inciso veramente in tutto il mondo. Sì, sicuramente Banco, Area, Le Orme, la BFM, comunque li andremo ad ascoltare tutti durante la puntata, non vi preoccupate. Hanno portato a termine un grande progetto musicale che ancora oggigiorno si ricorda a gran voce e si apprezza molto. Fino adesso abbiamo parlato principalmente solo di progressive, a parte i gong che si orientano più sulla psichedelia. Negli anni 70 però si è sviluppata un po' tutta la musica, nel senso non è che c'era solo progressive, diciamo, c'era il rock, e piano piano si va verso l'indie rock, in realtà quello lì qualche anno dopo. Sì, parecchi anni dopo, vabbè, insomma, lasciami dire, no? Intanto non se ne era accorto nessuno, dai. Si gettano le basi per tutto ciò che avviene adesso. Esatto. Noi adesso stiamo dando parecchia attenzione al progressive perché è quello che ci ha toccato di più, è la musica con cui siamo cresciuti, ma in realtà c'erano tanti altri generi, e soprattutto uno che ci fa ballare, che ha fatto ballare tanto e che ci fa ancora più ballare adesso noi riascoltandolo. Sicuramente balleremo qua in studio, quindi allora ballate, cani! Anche se non siete cani potete ballare lo stesso. Al massimo lupi. O anche se siete banane. Fate bruciasto 0649 1750. Con questa dovreste avere un risveglio felice, o almeno un danzereccio. Non saltate troppo però se vi state lavando i denti, perché rischiate di strozzarvi. E lui ne sa qualcosa. Naturalmente tutto ciò che vi diciamo ve lo diciamo per esperienza, non per altro. E che rimanga tra noi, mi raccomando. Non l'abbiamo mai detta a nessuno. piano piano purtroppo è il momento di tagliarla. Andiamo avanti con la nostra scaletta della storia della musica degli anni 70. Se volete potete continuare comunque a ballarla mentre noi parliamo, la sentirete ancora in sottofondo, immagino. E è un momento di fare un viaggetto verso l'Inghilterra con un gruppo che, insomma, anche questo l'abbiamo citato nelle scorse puntate, ve l'abbiamo fatto ascoltare, vi avevamo fatto ascoltare Aqualung, già da qui ho detto tutto, insomma, avrete capito chi sono, ma mandiamo il pezzo e poi ne parliamo, facciamo come prima, oppure ne parliamo adesso, oppure non ne parliamo. Bravo, metti il pezzo. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride your sails over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. Sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise, the elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the new fangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan's rapidly peeling, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the love that I feel, so far away, I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head, you said it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song. Il numero è 0649 1750. Questa è Radio Onda Rossa. Fate squillare questo telefono. Questo pezzo è per tutti quelli che sono stupidi come un mattone. E uno in considerazione lo prenderei, è Matteo, che in questo momento sta giocando con un laser qua in studio. E mannaggia a me quando l'ho portato. The doer and the thinker, no allowance for the other. As the failing light illuminates the mercenary's creed. A bonfire burning. E per citare un film degli anni 70, stupido è chi lo stupido fa. Quindi te sei il re. Ma così non è giusto però. La vorremmo far ascoltare tutta, ma purtroppo il tempo stringe, sono le 17:44 minuti prime, almeno qui a Radio Onda Rossa sugli 87.9, e vi vorremmo far ascoltare anche un altro pezzo dei Jethro Tull. Questo qui è uno dei primi, è uscito l'album Thick as a Brick, il singolo dedicato unicamente a questo pezzo nel 72, uno dei primi album dei il mio unico neurone ogni tanto si impalla, fatti per i computer. Jethro Tull, esatto. E perciò niente, vorremmo far ascoltare anche un pezzo un po' più recente, di poco più recente, è solo più di 3 anni più recente, del 75. Si chiama Cold Wind to Valhalla. Spero di averlo pronunciato giusto, e viene dall'album Minstrel in the Gallery. Di Tameto è sempre bellissima. Grazie, Dedo. Anche loro belli pazzerelli. Questa tocca tagliarla qui, nonostante sia notevole. I Jethro Tull sono apprezzabili nella totalità di tutti i loro album. Direi di andare avanti con la nostra scaletta. E naturalmente non diremo per la terza volta il tempo stringe, perché se no saremmo ripetitivi. Il tempo stringe, l'ho detto. Stringe come la scorsa settimana, mi fa male. Va bene, allora andiamo avanti. Sempre con uno di lingua inglese, ma in realtà americano. Si tratta naturalmente di Frank Zappa. Nel percorso del progressive della musica degli anni 70 non poteva mancare, e ve lo presentiamo con Muffin Man, tratto dall'album, se lo riesco a leggere, Bongo Fari, del 1975. Ve lo lasciamo ascoltare. E se non vi ricordate il numero per apprezzarlo, 061750. Ho detto due numeri in meno, mi sa. 06491750. Scusatemi. Chissà se alla fine il muffin se lo sono mangiato. Io ho il dubbio di sì. Molto probabile. Penso 80 kg di muffin. Mazza, 80 kg di muffin? E quanto mangi una settimana intera? No, no, in un solo boccone. Tipo Cappuccetto Rosso. Solo te ci riusciresti a fare una roba del genere, però è quello il bello. Assolutamente sì. Questi assoli di chitarra si riapprezzano le sonorità di Hendrix. Proprio il discorso che facevamo in apertura. Thank you. E questo era Frank Zappa con Muffin Man, un live spettacolare. Vorrei salutare in diretta Francesco, che ci chiede di mettere i Genesis. Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta per finire, sono le 17.54 e 11, 12, 13, 14. Questa è Radio Onda Rossa. Volendo anche 16, eh? Volendo, sempre volendo. Questo è Caffè Doppio e siamo su Radio Onda Rossa 87.9 FM. Vorremmo concludere la nostra puntata con un pezzo dei Led Zeppelin, un'altra band storica che, che ha segnato le sorti del rock odierno, diciamo. Assolutamente. Allora, niente, volevamo far ascoltare tanti altri pezzi, ma purtroppo il nostro tempo è quasi scaduto. Vi lasciamo con questo pezzo dei Led Zeppelin, Black Dog. Said the way you move gon' make you sweat, gon' make you groove. E arriviamo così alle 17:59 minuti primi, meno 10 secondi, fate voi il calcolo. Speriamo che siate in grado di farlo, ciò vorrebbe dire che siamo riusciti a svegliarvi per bene. Siete sempre sintonizzati sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. E questo è Caffè Doppio, siamo arrivati alla conclusione, vi ringraziamo a tutti e un saluto a domenica prossima dalle 17 alle 18. Sempre con Caffè Doppio e Radio Onda Rossa, vi ricordiamo che ci potete chiamare allo 0649 1750, scrivere a caffedoppio@ondarossa.info, mi raccomando la E senza l'accento, e potete sottoscrivere alla radio, la radio che si tiene in piedi grazie ai contributi degli ascoltatori, tramite internet sul sito www.ondarossa.info oppure dal conto corrente postale 618-04-001 da intestare a Radio Onda Rossa, via di Volci 56-001-85 Roma. È arrivata il momento proprio conclusivo di questa puntata. Auguriamo a tutti molti kiwi, cioè molti kiwi, li auguriamo tutti. E non dimenticate mai, dico mai. Il viola non è verde, ma se volete assomiglia a che colore? Al blu. Allora vai con la sigla. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè è la seconda materia prima trattata sui mercati finanziari. 70 milioni di tazzine al giorno. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè, il caffè. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le nostre prestazioni mentali?